Se parli con loro va tutto per il verso giusto. A prenderci per culo, questi già hanno preso gusto. Si mettono la giacca, poi vanno in televisione, cercando di convincere un'intera nazione. Qui c'è meritocrazia, zero raccomandazione. Nuovi posti di lavoro, zero disoccupazione. Siete tutti diversi, ma nessuno fa eccezione. Siete l'anello decadente della nostra evoluzione. Avrei bisogno di pensare al meglio, vedervi morti tutti al mio risveglio, senza ripetere lo stesso sbaglio e credere che poi cambierà. Ma non è facile cambiare questo, un mondo sporco, un mondo disonesto, dove sei tu quello fuori contesto. Se poi dici la verità e che nessuno capirà, che nessuno importerà, perché nessuno salverà questo mondo qua. In questo paese libero, pieno di corruzione, dove si dice sia alla droga, no alla legalizzazione. Mentre aumentano le tasse e diminuiscono i servizi, sarà che con i nostri soldi ci pagano i loro vizi. Tra puttane e vitalizi, tra rimborsi redditizi, fai discorsi ormai fittizi, dimmi solo quando inizi. Non ci vedi, siamo stanchi di sperare nel futuro, di non vedere in modo chiaro e di trovare un mondo scuro. Avrei bisogno di pensare al meglio, vedervi morti tutti al mio risveglio, senza ripetere